Batta adesso, ti dimostro il mio estro. Il tuo incastro è un disastro, il mio incastro è da maestro. E quindi attesto che sono un mostro. Ci sono a farsi la prigione con gli stili avversi. Zeus. In questo disco entro e mi presento al mondo hip hop. Sono Mr. Zeus, anche noto come Drago sputa flow. Prima di un freestyle non sto a casa a prepararle. Come Antonio solo due cose, il mio flow e le mie palle. Entro con rime che ti aprono da dentro. Sono il chirurgo e ti disventro, sabotando l'intervento. Gioco bene il mio strumento, il mio talento. Un disco monumento per ciò che rappresento. Rap sanguinolento, un momento. Un disco solo per riscattarmi con chi me non credeva. Io un rapper fallito, vediamo adesso chi si piega. Più rime io che tecniche di guerra, uno stratega. Giochi la Sony, solitudine un pesce sega. Non penso al passato col cervello scollegato. Ai brutti ricordi do accesso negato. E per tutti quelli che mi hanno considerato la mela marcia, ora me la rido mentre gli sbatto il mio disco in faccia. Porvi dentro Zeus.